noi siamo soli, seppure tra la gente ci scontriamo e ci chiediamo scusa, sai che cosa c'è? Non ci parliamo mai, se incontro un viso nuovo, prima hai paura e dopo fuggi sola come me, perché anche tu sei sola. E non mi dire che sono disposti in tanti a starti accanto. Sola come me, siamo rimasti soli. Le strade si stracolmano di gente e non gli frega niente. Guarda dentro a te, seppure tu sei sola, tiriamoci discorsi da cambiare. Fammi un po' capire, siamo stati noi ad inventare il mondo. Siamo forse noi che non troviamo un modo per capirci fino in fondo. Ma adesso con te ritroveremo un modo per cambiare le regole. Tu mi piaci di più, se sei così uguale, non mi fai sentire sola, ma viva. Sola con me, e vive. Siamo noi tutt'uno e non mi è andata giù che siamo stati noi a rovinare il mondo. Siamo forse noi che non troviamo modo per amarci fino in fondo. Ma adesso con te ritroveremo un modo per cambiare le regole. Stiamo spiccando il volo, spostiamo gli orizzonti verso nuova gente e andiamo insieme.